Non me ne frega niente di sfruttare la gente, io sono il più attraente, ricco e prepotente. Vengo dall'Oriente, sfrutto ogni mio parente per far roba lucente che compra ogni cliente. Un prezzo conveniente è quasi irriverente, maledetto dirompente che poi non è più niente. Il mandarino arriva silente, ipnotizzando la gente impaziente, ipnotizzando la gioia imminente. Ti toglie il lavoro e ti lascia impotente. Il mandarino arriva silente, ipnotizzando la gente impaziente, ipnotizzando la gioia imminente. Ti toglie il lavoro e ti lascia impotente. Se tu sei consenziente, ti getto in un torrente, senza salvagente, sei tu che sei cosciente, perché sei decadente ed anche inadempiente, sfugge all'incombente, ti senti onnipotente, io invece sono paziente, suonente e concludente, col corpo contundente, sul tuo mondo morente. Il mandarino arriva silente, ipnotizzando la gente impaziente, ipnotizzando la gioia imminente. Ti toglie il lavoro e ti lascia impotente. Il mandarino arriva silente, ipnotizzando la gente impaziente, ipnotizzando la gioia imminente. Ti toglie il lavoro e ti lascia impotente. E dai miei anelli, dai mille poteri, comando i miei schiavi senza pensieri. Il tuo futuro è finito già ieri, sfrutto i non oggi ed i mal volentieri. Vuoi aver molto e pagare poco, ti scavi la fossa e perdi al mio gioco. Io faccio il male come lo fa il cuoco, se sei già morto ti getto sul fuoco. Il mandarino arriva silente, ipnotizzando la gente impaziente, ipnotizzando la gioia imminente. Toglie tutto e ti lascia impotente. Il mandarino arriva silente, ipnotizzando la gente impaziente, ipnotizzando la gioia imminente. Toglie il lavoro.